i miracoli strumenti di rivelazione, di tanto in tanto capitano fenomeni che catturano l'opinione pubblica, ne parlano la stampa, la radio e la televisione. Mi riferisco ai miracoli, l'ultimo dei quali, secondo certa gente, è avvenuto proprio in questi giorni, cioè all'inizio del 1995. Una statuetta, così bisogna chiamarla, che rappresenta Maria, la madre di Gesù, avrebbe versato lacrime di sangue. Migliaia di persone, sane e malate, sentito questo avvenimento, hanno lasciato le proprie dimore per vedere tale fenomeno. Come cristiani evangelici, cosa abbiamo da dire al riguardo? O meglio, cosa dice la parola di Dio? Per tali fenomeni, cos è un miracolo? Che posto occupa nella fede cristiana? Quanti tipi di miracoli esistono? Cerchiamo di rispondere a queste domande. 1. Cos è un miracolo? A questa domanda gli studiosi sembrano essere nell'imbarazzo, perché non sanno bene come definirlo. Ma la definizione più comune è che esso sia un atto straordinario di Dio che si inserisce nella vita normale dell'uomo. Di conseguenza si parla di miracolo quando un cieco recupera la vista, quando uno storpio corre, e su questo non ci piove. 2. Che posto occupa il miracolo nella fede cristiana? A questa domanda rispondo: il posto giusto. La fede cristiana per sua natura crede in un Dio che fa miracoli. Dio creò il mondo e ogni cosa dal nulla, fece l'uomo a sua immagine, fece nascere un figlio da una coppia che non poteva averne, Abramo e Sara. Da questo figlio si formò una nazione, che egli salvò miracolosamente più volte. Alla fine vogliamo ricordare il miracolo dei miracoli. Dio si fece uomo, morì, risuscitò. Dio ha sempre fatto miracoli. Il suo scopo era quello di infondere la fede in Lui, a dimostrare che Egli vive e ama le sue creature. Per questo Dio ha donato a certi Suoi figli il dono di fare miracoli. Ma nessuno di questi si vantò mai di questa capacità e neppure se ne gloriò. Paolo scrisse 13 lettere, ma in nessuna di queste narra un solo miracolo. Solo nella seconda lettera ai Corinzi, 2 Corinzi 12, 1 a 3, racconta di sfuggita che fu rapito in cielo. E questo lo fece solo dopo 14 anni. Ma tale avvenimento per lui non costituiva il centro del suo messaggio. Pietro fece molti miracoli ed ebbe la bellissima esperienza di vedere Gesù nella gloria. Eppure, quando scrisse l'ultima lettera, seppure raccontò questo fatto, aggiunse: abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione. Egli metteva in risalto la parola di Dio più che la sua esperienza miracolosa. 2 Pietro 1, 15-21. Quando Gesù mandò i 70 discepoli a predicare il regno di Dio e a fare miracoli, questi se ne tornarono tutti contenti dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ma Gesù equilibrò subito la loro gioia dicendo: non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Luca 10:20. Perché parlò così Gesù? Perché in Matteo 7:21-23 ricorda che alcuni avevano fatto dei miracoli ma non erano salvati. Compiere miracoli non è una garanzia di essere dalla parte di Dio, né che si infonda la fede nelle persone. Gesù non fece nessun miracolo davanti a Erode, benché questi volesse ardentemente vedere qualcosa di straordinario. Luca 23:8. Il cristiano quindi accetta i miracoli perché sono strumenti che Dio usa per infondere la fede in lui, ma non sarà da essi abbagliato al punto di volgersi verso la creatura che li fa o li sopravvaluterà, ritenendoli sempre un'opera da parte di Dio. 3. Quanti tipi di miracoli esistono? Nel testimoniare la mia fede a certi cattolici, devo confessare che sono rimasto stupito nel constatare quanta ignoranza hanno in relazione a questo argomento. Molti cattolici non sanno che il diavolo può fare dei miracoli, comprese le guarigioni. Il greco usa 3 sostantivi per definire la parola miracolo: terata, prodigi, semeia, segni, dunameis, opere potenti. Queste tre parole le troviamo in Atti 2 e 22, riferite a Gesù. Ma se noi leggiamo in 2 Tessalonicesi 2, 9, troviamo le stesse parole applicate all'Anticristo. Sì, il diavolo può fare quello che fa Dio in questo campo. Può imitarlo. Non a caso è stato definito la scimmia di Dio. 4. Come distinguere i miracoli divini da quelli satanici? La risposta la troviamo in Deuteronomio 13, 1 a 5. Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annunzia un segno o un prodigio? E il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice, andiamo dietro a dei stranieri, che tu non hai mai conosciuto, e serviamoli. Tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Seguirete l'Eterno, il vostro Dio, lo temerete, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete alla sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a lui. Quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte, perché avrà predicato l'apostasia dall'Eterno Dio vostro, che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, per spingerti fuori dalla via per la quale l'Eterno, il tuo Dio, ti ha ordinato di camminare. Così toglierai il male di mezzo a te. Dio sa che il diavolo può fare miracoli e per questo avverte che chi compie miracoli e poi induce le persone ad allontanarsi da lui non è dei suoi. Egli permette i miracoli per mettere alla prova l'amore di chi crede in lui. Infatti, benché l'uomo veda queste opere potenti, egli è chiamato a seguire il vero Dio, a temerlo, a osservare ciò che è scritto nella sua parola. Perché Dio ordina categoricamente di ubbidire alla sua parola? Perché non vuole che siamo abbagliati dal miracolo? Per il semplice motivo che il miracolo è un'esperienza quotidiana. E questo avviene sia in quello che noi chiamiamo caso, sia perché i nostri occhi non sono esercitati a vederli. Facciamo due esempi. Ricordate com'è morto il re Acab? Un profeta aveva annunciato che sarebbe morto in guerra. E Acab, anche se non ci credeva come atto di scaramanzia, si travestì e andò in guerra. Ma un guerriero tirò a caso una freccia e colpì il re, il quale morì dissanguato. 2 Cronache 18 e 19 33. Era stato profetizzato che Gesù sarebbe nato a Betlemme, ma Giuseppe e Maria abitavano a Nazaret. Il caso volle che Cesare Augusto facesse un censimento, che Maria fosse in procinto di partorire, che andò a Betlemme. Proprio in quel momento partorì Gesù. È proprio vero che il caso è un miracolo dove Dio ha voluto che la sua opera rimanesse nascosta. Sì, la vita è tutto un miracolo, è un continuo intervento straordinario di Dio. È tanto comune il suo intervento straordinario che noi ormai non ci facciamo più caso. Giustamente Pascal faceva notare come siamo strani. Le cose straordinarie come la nascita di un bambino solo perché sono comuni diventano normali, ma la nascita di un bambino è sempre un fatto straordinario. Oggigiorno capitano gravissimi incidenti stradali dai quali le persone escono illese, eppure non si nomina la parola miracolo. Non solo, quasi nessuno di coloro che escono illesi da un pauroso incidente diventa cristiano. Qualcuno però potrebbe osservare, e mi è stato anche detto, va bene, hai ragione, però se vedessi un morto risuscitare, allora crederei in Dio. Chi pone questa condizione per credere in Dio? Dimentica che Gesù, prevedendo questa domanda, raccontò il fatto di Lazzaro. Alla conclusione del racconto disse, se non ascoltano Mosè e i profeti la parola di Dio, non si la saranno persuadere neppure se uno dei morti risusciti. Luca 16, 19, 31. E infatti questo avvenne. Gesù risuscitò, ma non tutti i suoi contemporanei credettero al miracolo. Oggi l'uomo conosce l'Evangelo, la nascita, la morte e la resurrezione di Gesù, ma questi fatti storici lasciano indifferenti le persone. Posso comprendere l'indifferenza delle persone di ciò che è religioso, ma mi stupisce come non possano avere un fastidioso dubbio sulla resurrezione di Gesù, dal momento che il cristianesimo basa il suo messaggio su qualcosa che è ritenuto impossibile. Perché un messaggio sia accettato e credibile, si cerca sempre di renderlo verosimile quanto più possibile, ma fondare tutto su di un presupposto apparentemente impossibile mi sembra un fatto veramente unico nella storia delle religioni. Chi ostinatamente continua a rifiutare il cristianesimo per il suo messaggio apparentemente impossibile, dovrebbe comunque preferire l'impossibile probabile al possibile improbabile. La conclusione è questa. Se chi non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio, non può neppure vedere i miracoli di Dio. Eppure la vita è tutto un miracolo. Gesù sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Ebrei 1:3. Per questo ti invito a glorificare il Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e dal quale dipendono tutte le tue vie. Daniele 5:23. Se tu che leggi sei un cristiano, ti invito a non richiedere affannosamente il miracolo. Lo scopo della tua vita non sia ricercare la guarigione o l'intervento prodigioso di Dio, ma di compiere la sua volontà. Quando Gesù fu trasportato dallo Spirito Santo nel deserto, ebbe fame. Poteva compiere un miracolo, ma avrebbe commesso un grosso errore. Quando si trovò nel Getsemani, Gesù avrebbe potuto sottrarsi alla dura legge della prova e chiedere l'intervento di Dio per essere salvato dalla morte ignobile della croce. Ma si rimise nelle mani del Padre. Come disse Watchman Nee, avere Dio come nostra vita non è un compromesso commerciale. Coloro che lo conoscono veramente e sono in intima comunione con Lui non chiedono la guarigione ma cercano il Padre. Se la salute dovesse sviarli e portarli lontano dalla gloria di Dio, allora preferirebbero non guarire. Sì. Che l'obiettivo della tua vita sia di glorificare Dio sia con la salute che con la malattia, nella cattiva e nella buona sorte. Il bene supremo non è il benessere o la rimozione degli ostacoli, ma imparare ad essere contenti nello stato in cui ci si trova. Filippesi 4:11. E pochi sono coloro che realizzano questo. Anche tra i credenti. Ma soprattutto, ritieni la tua vita un miracolo vivente. E un miracolo che non ti lasci sedurre dal mondo, che perdoni, che sopporti i tuoi fratelli, che sei fedele, che ami nonostante tutto. Nessuno ha mai visto Dio, ma se il suo amore dimora in te, allora il mondo vedrà il più grande di tutti i miracoli. Questo miracolo avrà ottenuto il suo scopo, essere uno strumento di rivelazione al mondo di Dio e del suo amore. Il mondo vedrà che Dio è in te, che non sei più tu a vivere, ma Cristo vide in te, questo è il cristianesimo, e cristianesimo significa miracolo. Il tuo prossimo crederà che Gesù è stato mandato da Dio per essere il salvatore del mondo. E un'anima salvata non è un miracolo che dura solo per questa vita, ma il suo valore è eterno. Febbraio 1995. Ellero,